Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, finisce l'epopea del bandito Chiavone. Qualche mese fa, per incontrarlo, un nostro collega francese del giornale Illustration Journal Universel, Pierre Paget, si è avventurato nei boschi al confine tra Campania e Stato della Chiesa. Lo ha trovato vestito da generale con tanto di galloni d'oro e cappello di feltro ornato da una piuma. Gli ha chiesto dei suoi obiettivi. Lui ha risposto: cacciare il piemontese e marciare su Torino, restaurare Francesco II al posto di Vittorio Emanuele. Luigi Alonzi, meglio conosciuto come Chiavone, mezzo bandito, mezzo soldato, personaggio sui generis. Per alcuni mesi si è fregiato del titolo comandante in capo di tutte le truppe del re delle due Sicilie, concessogli dallo stesso Francesco di Borbone. Dalla resa di Gaeta nessuno è stato tanto efficace nel rendere precario il dominio italiano tra la Marsica e Terracina. Tuttavia lo scorso 28 giugno è stato fucilato dopo essere stato processato da quel generale Tristany de Barrera che qualche mese prima il suo re Francesco gli aveva inviato da Roma per addestrare e disciplinarne la banda. Il canto dei sanfedisti ci riporta alle origini di questo figlio di Sora, guardiaboschi come il nonno Valentino che fu brigante insieme a Fra Diavolo. Nella seconda metà del 1860, sostenuto da popolo e clero in primis dal vescovo di Sora, Giuseppe Montieri, ha iniziato a dare la caccia ai liberali. L'area dominata dalla sua forte banda è divenuta una delle tante zone franche dell'ex Regno del Sud. Ha fatto di Sora la sua roccaforte, riuscito anche a riconquistarla quando l'esercito piemontese è intervenuto. La sua tattica però è sempre stata quella di rifugiarsi nel territorio pontificio in caso di problemi. A Bauco sconfigge persino il generale piemontese De Sonnaz, conquista il favore di Francesco II e di Maria Sofia, nella sua banda accorrono avventurieri stranieri e lui acquista persino qualche pezzo d'artiglieria. Il vento cambia nell'inverno scorso, si fa più cauto, secondo alcuni perché troppo attaccato alla sua amante Olimpia. Molti lo abbandonano, è allora che da Roma il re manda Rafael Tristany de Barrera per riorganizzare le forze decimate e indisciplinate di Chiavone. Ma il guardiacaccia entra in conflitto con il nuovo venuto. Nella primavera assalta da solo alcuni paesi, ma fallisce quello a Castel di Sangro. Fugge. A questo punto Tristany pare ne abbia ordinato l'arresto. Viene processato e ucciso. Poi il cadavere viene bruciato per evitarne il riconoscimento da parte degli italiani. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.